Ecco, il mio approccio è un po' diverso, si sente? Sì, è un po' diverso, in fondo devo ripensare addirittura al 1966 o 67, quando ero studente e andai a sentire la presentazione del progetto o del primo volume, non mi ricordo più, dell'equipe guidata da De Rosa al Patriarcato di Venezia. In fondo, voglio dire, è un salto molto indietro nel tempo. E allora qui, di qui parte la mia riflessione, che è articolata in 5 punti sommari. Che cosa si diceva allora? Un approccio alle fonti, non solo le visite pastorali. Questa era la prima indicazione che veniva fuori dal discorso di De Rosa, ma ancora prima di De Rosa c'era stato Le Bras. Non solo le visite pastorali, non solo le fonti ecclesiastiche. E su questo, direi una banalità, su questo poi è andata avanti tutta la storiografia francese sino a Vauvel in anni recenti, che ha riproposto con forza questo tema. E allora, da questo punto di vista, appunto, il primo pensiero è: non dimentichiamoci, appunto, della riflessione e della tradizione degli studi che abbiamo dietro le spalle. E una seconda riflessione di questo primo punto è legata proprio alla fonte. E attenzione a distinguere, è stato fatto giustamente, ma non si è sempre necessario ribadirlo, attenzione a distinguere tecniche e tradizioni di approccio dall'interrogazione delle fonti. Le tecniche si aggiungono, non si sostituiscono alle fonti, come ad esempio la computerizzazione di una serie di dati non si sostituisce alla fonte medesima. Da questo punto di vista noi ci possiamo trovare davanti a tutta una serie di riflessioni che vengono dalla più recente produzione, ad esempio, di storia sociale. Abbiamo davanti a noi delle riflessioni relative a una storia sociale della Gran Bretagna, dove l'aspetto storico-religioso è praticamente assente, sino alla storia sociale, socio-religiosa della Francia, che ha invece dietro una tradizione che viene proprio da Le Bras e che si è poi concretizzata in una serie di volumi molto consistenti, ma che sono legati poi al tema tradizionale della pratica o delle pratiche religiose nel 8-900. Ecco, il punto di riferimento che in fondo sta dietro è quello di una tradizione che coniuga diritto canonico, ma anche il campo religioso. I rapporti fra Le Bras e Gurwitch, ad esempio, sono abbastanza noti. Non solo Le Bras e Gurwitch in questa tradizione ci stanno, ma anche Fèvre e Bloch, sino a appunto agli interventi più recenti di Vauvel. E in fondo storia sociale, storia religiosa, spesso la storia si definisce in negativo: che cosa non è o che cosa non vuole essere storia sociale e storia religiosa. Delle volte si dice non è storia politica, non è storia della cultura, non è storia delle istituzioni, ma come se non ci fosse un intreccio fra singoli, comunità e istituzioni. Ci sono delle sottocategorie in questa genealogia. Alcune sottocategorie che sono state molto praticate in Italia, ad esempio, sono la sottocategoria della pastoralità, su cui molto ha insistito De Rosa e recentemente è ritornato sopra Alberigo, che guarda invece al modo con cui il vescovo assume tutta una serie di problemi e se ne fa carico, ma c'è anche una storia del vissuto religioso, in fondo una storia vissuta del popolo cristiano, qualcuno l'ha pubblicata di recente, una sottocategoria credo sia anche la religiosità popolare, salvo essere smentito, una sottocategoria per alcuni è stata anche la storia del movimento cattolico in una certa prospettiva. Ecco, una lettura che mi è parsa invece supportata abbastanza agevolmente dalla fonte è la fonte come istituto, e questo è anche il titolo in fondo del nostro incontro, cioè noi abbiamo riflettuto certo sulla fonte, abbiamo discusso della fonte, problemi di tecniche di approccio della fonte, ma non abbiamo mai dimenticato che la fonte è la visita pastorale, è prodotta da istituzioni ed è istituto essa medesima, un istituto che tocca degli enti, tocca dei luoghi ancora prima, tocca delle persone in quanto reggenti degli uffici o sottoposte a uffici, e quindi viene a toccare la società nelle sue relazioni con le istituzioni o alcune istituzioni. Ci sono delle limitazioni dell'istituto, certo, ma questa lettura della visita pastorale come istituto poi in parte è rifluita, certo, anche nella impostazione del nostro discorso anche di approccio tecnico. D'altra parte direi che è una cosa abbastanza banale, abbastanza scontata, ma delle volte anche dire o ricordare delle questioni scontate non si fa mai male, perché nelle visite compaiono più istituzioni, sono istituzioni che danno nome a vario livello al territorio, parrocchia, cappella, danno nome a quel territorio spesso, nel Medioevo certamente, ma anche sono designazioni che compaiono anche nell'età moderna. Ci sono istituzioni associative di varia natura, ci sono ufficialità incarnate in persone, quindi non dobbiamo neppure dimenticare che nei materiali prodotti durante le visite, talora noi abbiamo a lato tutta una serie di inventari che ci aiutano a comprendere meglio la natura, certo, della fonte che noi andiamo ad esaminare, ma sono utilizzabili o leggibili anche per vedere delle logiche di ordine giuridico che segnano godimenti di diritti o meno. Ogni volta c'è una rivendicazione dell'istituto, allora della visita, vorrei ricordare che l'esercizio di un diritto concretamente espletato nella prassi è importante, e altresì importante la realizzazione di questo diritto sul territorio di pertinenza. Questo per quanto riguarda il primo punto. Il secondo punto è invece una questione un poco più personale, se volete. Io faccio un discorso di tipo personale e mi sono sempre interrogato sulle fonti religiose in chiave, fra virgolette, laica, nel senso di un'assunzione della fonte come si può assumere qualsiasi altro tipo di fonte, e nel caso specifico a partire ad esempio da suggestioni che vengono, oltre che dalla sociologia, molto meno dall'antropologia, anche dalla storia delle religioni. Una lettura che vede centrato il discorso sul sacro incarnato in una cultura, incarnato in una realtà geograficamente concreta e specifica. Da questo punto di vista i contesti comparativi possono essere molteplici, abbiamo delle possibilità appunto di un contesto forte che è quello comparativo, intendo dire, un contesto comparativo che è quello che viene dato dall'assetto geografico e spaziale, che è anche però istituzionale, politico, territoriale e anche ecclesiastico. Più difficile individuare quello culturale e mentale, ma questo compare attraverso, ad esempio, la segnalazione in non pochi casi delle i legami con le strutture familiari. E il contesto comparativo poi è poi stato molto praticato, soprattutto sul lungo periodo. Ci si può fermare anche sul breve, ma è sul lungo periodo che forse vengono le cose migliori o si possono vedere o rimarcare delle differenze. E quando dicevo prima il tema del sacro, penso ad esempio al problema del tempo, alla dimensione del tempo nella esperienza religiosa, che in parte attraverso lo studio delle visite si può recuperare, dico in parte, senza dimenticare quanto detto poco fa, dal tempo liturgico al ciclo memoriale, al tempo cerimoniale, al tempo, quello delle feste ad esempio, al tempo vuoto, le censure, al tempo comune della vita quotidiana o al tempo escatologico, quante sono le visite che cominciano dal cimitero, da questa unione con i morti. Anche con ovviamente il territorio, perché se noi pensiamo ad esempio alla presenza dei segni religiosi sul territorio, questi compaiono numerosissimi. Ci sono degli avanzi fisici e materiali che noi possiamo andare a vedere ancora oggi, ci sono degli avanzi che emergono dal discorso delle visite. E ad esempio i luoghi sacri, in parte un'organizzazione anche extra istituzionale, penso soprattutto a visite cinquecentesche, ma sono casi sporadici ancora più avanti nel tempo, la presenza di segni sacri sul territorio, dalle croci a cappellette e altro, che danno idea di una gerarchizzazione diversa del medesimo territorio e danno anche l'idea di problemi di gestione del sacro sul territorio medesimo, come danno l'idea di questioni connesse alla stessa sacralizzazione del territorio, la costruzione di territori differenti, territori di coloro che vanno ad assolvere i loro voti ai santuari, sono territori che non coincidono con geografie istituzionali di alcun tipo. C'è un'istituzione che vive a lato. E abbiamo anche però la costituzione di una serie di una rete di rapporti, che è quella che noi possiamo vedere guardando alla struttura sociale, alle persone e alle cose, non solo al tempo e allo spazio. Le Brass, non è fuori di luogo questo richiamo, segnalava delle strutture che lui definiva naturali: la famiglia, la professione, la famiglia e il vicinato con rapporti influenti, la professione, la città, ma anche come luoghi di lavoro e di divertimento, come forme della società civile che incidono sulla vita religiosa, e un quadro di strutture legami, diciamo, lineari, ad esempio, legami verticali, quelli gerarchici, legami diagonali, quelli che assicurano e associano su un piano di parità elementi dispari, ad esempio all'interno di associazioni o di confraternite. Ecco, questa trama di rapporti molto variabili, direi a geografia variabile, mi pare una lezione ancora per me valida e interessante, perché qui si possono trovare principi di unione, di coesione, ma anche di differenza, di vitalità di una società religiosa e anche civile. Ci sono modi di aggregazione, di esclusione, di reintegrazione, si segnano anche relazioni diverse, rapporti che segnano poi anche modificazioni nel tempo. Ecco, questo tipo di realtà vive non disgiunta, questo tipo di realtà religiosa non vive disgiunta dalla realtà sociale, dalla cultura del tempo, dico cultura in senso complessivo e più ampio, dalle situazioni di esistenza. Ecco allora che per me appunto le visite costituiscono anche un motivo per andare ad esaminare molto più nel dettaglio la concretezza del territorio nel quale ciascuna visita si situa. È chiaro che qui si apre un interrogativo che viene a toccare il quadro delle strutture, delle dinamiche, della dimensione religiosa. Qualcuno dice che il fatto religioso e la dimensione religiosa non può essere colta se non secondo i suoi principi. Mi pare un'affermazione che certamente è discutibile, eppure ha avuto un certo spazio in tutta una serie di teorizzazioni proposito. Ci sono certo tanti individui, ci sono differenze sociali, culturali, di sensibilità, molti elementi, però è anche vero che una dimensione dell'uomo religioso all'interno di questo contesto che sia costruito, questo può essere oggetto di discussione, tuttavia c'è. È una proposta che un uomo religioso che fa i conti con la pluralità delle proposte che si trova sul campo, con le pluralità di espressioni culturali che sono presenti. Ecco, qui allora la mia riflessione tocca il terzo punto, e cioè il fatto che noi possiamo avvicinarci alle fonti, possiamo avvicinarci ai problemi che troviamo, ma i problemi in fondo cambiano con il tempo, cambiano perché cambiano le nostre domande, cambiano le sollecitazioni che noi abbiamo. Questa mattina il professor Ziegler ricordava, faceva un excursus della tradizione storiografica tedesca e arrivava poi a mettere in luce nuovi paradigmi storici come quello di confessionalizzazione, disciplinamento sociale, modernizzazione, che sollecitano delle ricerche e ritornano, rifluiscono nell'interrogazione delle fonti. Ecco, se noi pensiamo alle sollecitazioni disciplinari che venivano dalla sociologia o ancora in parte dall'antropologia, noi vediamo che le sollecitazioni cambiano. Oggi, ad esempio, arrivano più sollecitazioni dall'antropologia, oppure sollecitazioni che sono belle che pronte sul mercato delle proposte sociologiche. Penso, ad esempio, a chi sceglie di sposare in maniera più o meno critica le tesi o le ipotesi di un autore di sociologia religiosa, piuttosto che un altro, uno che si lega piuttosto al funzionalismo anglosassone piuttosto che ad un'altra ipotesi. Ecco, qui allora è vero quello che ricordava Prosperi quando invitava a essere prudenti nell'avvicinarci alla fonte, perché lo sguardo obliquo dello storico è uno sguardo obliquo che ha molte sfaccettature e anche dietro delle letture e delle e delle ipotesi di lavoro che vengono assunte a partire appunto dal fatto di vivere in un certo contesto culturale. E talora si dà adesione esplicita o implicita a queste ipotesi sulla religione che noi ritroviamo. Ecco, una ipotesi che è stata fatta, ad esempio, non c'è un'ipotesi sulla religione, è ad esempio un'ipotesi che ha tenuto più conto, ad esempio, dei meccanismi di disciplinamento sociale e di confessionalizzazione. Certo, qui a Trento, andando a guardare il rapporto fra società e istituzioni, andando a guardare il rapporto tra poteri e pratiche, beh, si è fatta certo una scelta, ma appunto anche fare delle scelte comporta dei rischi, ma comporta anche una distanza rispetto alle medesime scelte. È sempre una attenzione e una tensione critica nei confronti delle medesime. Ed ecco allora il quarto punto del mio discorso, è giocato sul termine della presbiopia e della miopia. In fondo nessuno di noi vorrebbe essere contemporaneamente miope e presbite, eppure talora siamo miopi, talora siamo presbiti, quando ci avviciniamo ai fenomeni. A me piace molto la microanalisi, piace anche però la macroanalisi. Allora credo che ci siano alcuni macrofenomeni della prima età moderna che costituiscono dei fattori significativi anche rispetto al nostro avvicinamento alle visite. E lo sviluppo e la crisi demografica, lo sviluppo, la crescita e in parte anche la crisi poi demografica che procede dal XVI secolo in poi vede una crescita della popolazione. Questa crescita della popolazione ha dei ritorni anche nelle visite. In genere noi non ci pensiamo, ma questo c'è. Quando ci sono, certo, problemi di potere, di separazione di una succursale dalla parrocchia, c'è una comunità che interviene, ci sono relazioni di potere, ma c'è anche poi una questione concreta e pratica che è legata alla popolazione, agli uomini. È legata anche alla diversa allocazione della popolazione, perché abbiamo anche dei passaggi da città a campagna, da campagna a città. Ci sono delle realtà in movimento delle quali bisognerebbe tenere forse più conto. Una seconda considerazione mi viene, questa è più limitata, dallo sviluppo e dalla crescita della dotazione delle chiese, che è costante lungo tutta l'età moderna. E in rapporto alle dinamiche cultuali e beneficiarie c'è una costruzione collettiva che ha un peso, che presenta pesi differenti. Ci sono motivazioni differenti, ci sono giochi anche rituali di potere e all'interno, però sta di fatto che il prodotto finale è quello che poi noi possiamo agevolmente constatare, un prodotto finale che ha tutta una serie di motivazioni, ma che su in un trend di lungo periodo poi alla fine si consegna all'Ottocento in termini probabilmente diversi. Problema non dissimile mi viene dal discorso relativo alla crescita delle confraternite e al devozionalismo, dove noi assistiamo a una proliferazione di enti ed istituti. Cambiano le logiche, ma appunto bisognerà anche interrogarsi che cosa significano cosa significa questa crescita. Lo stesso riguarda problema che per me è anche più interessante, ma sono problemi che segnalo all'attenzione, la crescita della complessità sociale e la necessità di regolamentarla. qui il problema della regolamentazione dei conflitti anche all'interno delle singole e specifiche comunità e la regolamentazione dei conflitti istituzionali, nonostante i rigidimenti cettuali, presenze con presenze, e direi che comunque va tenuto presente perché questa crescita della complessità sociale ha dei ritorni nella società, diciamo, dell'età moderna, ha dei ritorni poi all'interno della realtà della visita. Così come la crescita dell'ambito secolare. Cresce il controllo dell'amministrazione o delle amministrazioni sulla vita quotidiana, cresce il controllo delle istituzioni nel loro complesso. Questo in qualche modo ritorna ampiamente nelle visite per quanto tocca, ad esempio, le comunità e lo Stato, le comunità piccole e grandi e anche lo Stato, perché c'è certamente un problema di gestione, un problema di gestione, ma c'è anche un problema di costruzione del territorio e dello Stato. Schilling ha parlato di costruzione dell'identità. Mi pare che la sua ipotesi sia abbastanza interessante, laddove si afferma un principio di coesione dell'unità sociale. Fondo, in altri termini, aveva parlato anche dello stesso Le Bras in riferimento ai sentimenti di appartenenza e di modulazione di questa appartenenza all'interno di una comunità organizzata che però è una comunità con molte distinzioni al suo interno. D'altra parte non credo di andare molto lontano da Prodi, ricordare uno sviluppo, un processo parallelo che è tutto da verificare, di costruzione della realtà civile e della realtà religiosa all'interno del periodo che a noi interessa. Però questo tema è legato al territorio, è una chiesa che si va calata nelle particelle di territorio, dove gli uomini sono accortamente distribuiti, ricordava ancora lo stesso Le Bras in anni lontani. Ecco allora che il problema della legittimazione dei gruppi, gruppi sociali organizzati, gruppi clan, gruppi familiari e quant'altro, in connessione con queste altre tematiche che macro, diciamo, macro, questi macro fenomeni, mi pare da tenere presente. Ecco allora che, tornando a un assunto in qualche modo originario, certo c'è stata una lunga discussione su storia sociale e storia religiosa, qualcuno che ricordava storia religiosa, che tenta di diventare storia della società, altri che pensavano o erano tentati da ridurre la storia a storia sociale, da storia sociale a storia della società. Sono delle tentazioni che magari sono anche ricorrenti, ma è anche vero che le strutture sociali sono influenti e intrecciate con la vita religiosa e con il sistema religioso. In fondo Hobsbawm ancora nel 73 metteva a tema della storia sociale una serie di tematiche che comprendevano certo situazione demografica, economica, strutture produttive, ambiente naturale, per arrivare anche appunto a istituzioni, valori e modelli culturali. Ecco, si potrebbe dire che storia sociale e storia religiosa si dovrebbero teoricamente coniugare insieme, ma è difficile integrare le due realtà in un contesto di storia complessiva, di storia totale. I due punti di vista sono due punti di vista sulla storia, sono modi di ricostruire la storia e a seconda dell'uso che ne facciamo noi possono dare un quadro geografico, sociologico, antropologico, religioso o altro. È certo che dalla storia sociale, dal dibattito che c'è stato di storia sociale e storia religiosa, viene valorizzata la interdisciplinarietà sotto l'aspetto della collaborazione con altre discipline e come collaborazione fra diversi specialisti aperti alle domande delle specifiche discipline. Viene fuori anche una attenzione alle strutture portanti della società, al potere, alle istituzioni, alla burocrazia, agli ufficiali, ai ruoli delle parentele, all'incarnazione della religione nella società, nei suoi corpi, nei suoi luoghi, nei suoi rapporti con i principi amministrativi, con l'esercizio della giustizia e così via. Ecco allora che il campo della visita, questa chiave per me è interessante per vedere anche ciò che vi è incluso e ciò che vi è escluso. È interessante come cartina di tornasole per alcune cose. Io non mi sognerò mai di andare a fare un'indagine sugli eretici a partire dalle visite pastorali, l'ho detto altre volte, lo ribadisco qui, guarderò piuttosto con attenzione a tutta un'altra serie di tematiche. E tuttavia le visite sopportano le domande di chi visita, ma ci sono anche le domande e gli interventi di chi viene visitato, e c'è anche la stessa visita che può essere un luogo di incontro di queste medesime domande dell'uno e dell'altro. Ecco, io non credo di avere altro da dire, anche moltissimo altro da dire, ma non ti vogliamo mettere alla prova. Siamo davanti a mio avviso a una fonte che presenta descrizioni talora ripetute, ma sono ripetute nel momento in cui noi non teniamo conto di un dato di fatto, che è una visita, è la visita a quel determinato ente territoriale, a quella determinata istituzione, ed è sempre una singola visita, anche se si trova all'interno di una diocesi con centinaia e centinaia di visite effettuate, perché noi diamo, bisogna intendersi anche sul nome di visita. Allora torniamo al discorso iniziale, originario: la visita come istituto può sopportare molte letture e probabilmente anche porci tutta una serie di nuovi problemi. Grazie.